Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. E ridono, cosa ridete? Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo? Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani. Hey mambo italiano, go, you mix up siciliano. Oh, you Calabrese, do the mambo like a crazy weather. Hey mambo. Se fossi in Parlamento io oggi voterei convintamente contro la mozione di sfiducia e voterei quindi per evitare le dimissioni del ministro Boschi, non ho nessun dubbio. Io credo che sarà un autogol per loro, per chi ha presentato la mozione. Noi si può fare politica quanto vogliamo, però c'è un limite, che è il confine del rispetto umano. Quando si esce da quel limite, si entra nel terreno dell'odio e si arriva a strumentalizzare la morte delle persone, siamo al di là del bene e del male. Matteo Renzi abbia cambiato idea rispetto alle tante volte che lui invece ha avuto nel passato, prima di diventare Presidente del Consiglio, atteggiamenti molto diversi, ha usato due pesi e due misure, una specie di moralità intermittenza. Io penso invece che bisogna essere lineari. Mambo italiano, e mambo italiano, you mix up siciliano. Hey, look, you say this, you get happy in the pizza when you mambo italiano. Una vergogna, in qualsiasi paese europeo da nord a sud con quello che è successo. Non solo la Boschi, ma anche Renzi si sarebbero già dimessi. Banche fallite, banche salvate, amministratori aiutati, parenti coinvolti. Cioè veramente al peggio del peggio del peggio della Prima Repubblica. E Ale, iscrivetevi anche voi alle dichiarazioni sul ministro Boschi. Adesso per giorni non si parlerà d'altro, Ministro Boschi pare che voglia chiudere tutto entro Natale, a dire andiamo a votare subito anche al Senato, votiamo subito la mozione, ma togliamoci questa cosa di dosso. Invece Renzi, racconta Repubblica, ha mandato ai suoi una comunicazione: me ne occupo io personalmente, niente interviste su questa vicenda. Neanche la Boschi, niente interviste. Tra l'altro danno una Boschi infuriata per l'intervista che sarebbe stata carpita alla madre ieri sul Corriere della Sera. Amici, ma non è questa la notizia del giorno alle 6.33 minuti. Le notizie sono due, per la verità. A Roma hanno cominciato a togliere i circenses, panem e circenses. Quest'anno a Capodanno il prefetto Tronca ha detto: non si festeggia nessun concertone, nessun veglione. Non ci sono soldi, non ci sono i soldi. Ma la notizia del giorno la dà Repubblica, solo Repubblica. È morto Licio Gelli. O quello lì è Licio Gelli, 96 anni. Belfagor Licio Gelli, quello della P2, è morto a 96 anni ieri poco prima di mezzanotte, racconta Repubblica. Dai, le 6:34 minuti, Lorenzo Nespoli svegliato da me praticamente stamattina, cioè il contrario, nel senso, vabbè, stamattina non mi è suonata la sveglia, allora devo svelare questo piccolo particolare, quindi mi sono fiondato violando 400 norme del codice della strada, credo 400 più o meno, l'ho tenuto il conto qui, ma sono arrivato, Lorenzo Nespoli è stato sbrandato da me, nel senso, fai questo, sto arrivando, vabbè, ma siamo qui con Peter Bescapè regia e con la nostra la radio. Ce l'ho fatta. Ma caro Milan, io ringrazio anche per la sigla che come sempre mi commuove, ma insomma, anche qualora tu non ti svegliassi, sì, ma davanti te presente. Ma sarebbe comunque presente, perché in un attimo, perché i tuoi superpoteri, tu adesso dici ho dovuto guidare la macchina e dilla tutta che invece in realtà hai una tutina rossa con la M, di superalino sotto, e quindi chiaro, ho fatto così, sono arrivato qua in un attimo. Ebbene sì, buongiorno cara Paola Saluzzi, sì, sono arrivato qua in due secondi e viva, e c'è anche il nostro mega super dir, certo, buongiorno. Il nostro Luca Dini, buongiorno. Che dice Luca? Sono presente ma non sveglio. Ecco, esatto, per voi è comodo, eh? Ah, vabbè, accendete. Ah, sei così, metti le pantofole che mi devo spostare un attimo invece. Io sono uscito come un amante beccato con la camicia aperta per la strada, rincorrendo la macchina con la cintura dei pantaloni non ancora allacciata e le scarpe che ancora non ho allacciato. Un'immagine veramente da arresto immediato da parte di qualsiasi. È grande cinema. No, ma avevo già previsto tutto, guarda che avevo già previsto tutto, mi fermava, non so, un carabiniere, polizia, mi fermava, lei dove sta correndo così? No, ma guarda, cioè, lasci perdere Paola Saluzzi, Luca Dini, ma mi faccia andare, che c'è la radio, e non capisce, le sei e mezzo. Sarebbe stato carino fare il collegamento da lì, sì, vabbè, lasciamo perdere, sarebbe stato bello. Va bene, ragazzi, allora, intanto, cara Paola, vi tolgo di Circenses, si comincia così. E se non ci sono soldi si va. Non si festeggia. Ho capito, ma panem e Circenses, ma prefetto Tronco. Andavamo in vacanza quando a casa non c'erano soldi? No. Ma no, ho capito, ma allora, voglio dire, cioè, è da 2000 anni, panem e Circenses. E ho capito, ma guarda in 2000 anni come ci siamo ridotti. della serie, io non voglio dare ragione a tutti i costi a nessuno, ma insomma, se hanno preso una decisione del genere, forse perché le casse le hanno sotto mano loro e hanno guardato cosa ci sia dentro. Non c'è dentro, praticamente se rimbombe, se c'è l'eco, vuol dire che forse ci sono dei problemi. Bisognava sospendere questo. Va bene, ma infatti adesso parliamo anche di cose politiche. Però mi aveva colpito anche questo. Come Luca di la morte di Licio Gelli. Oh, Licio Gelli, ma tu hai qualche ricordo da giovincello, da giovanotto di questo Licio Gelli? Ormai era scomparso da tutte le cronache, no? Beh, sì, ogni tanto diciamo che veniva riesumato, cioè, oppure ha fatto qualche intervista, però insomma. Aveva 96 anni, sembrava immortale. Chissà quanti segreti si è portato dietro. Si è portato dietro nella tomba. Vabbè, la morte di Licio Gelli. Allora, però, la notizia politica del giorno l'avete sentita, non si parla d'altro. È questa storia della Boschi, della banca. Secondo me, per oggi, il Fatto Quotidiano scrive una notizia in prima pagina che, se vera, è abbastanza inquietante. Cioè, il procuratore capo di Arezzo, la procura che indaga sulla Banca Etruria, risulta nell'elenco dei consulenti del governo di Palazzo Chigi. Ora, adesso va bene tutto, perché poi tra l'altro una consulenza minima, 5.000 euro lordi, ma vabbè, mettiamo anche questa. Però Luca Dini, cominciamo dalla questione politica. Si deve dimettere il ministro Boschi? Perché questa è la domanda, non giriamoci intorno. Ma insomma, io non sarò popolare per quello che dico, però ritengo che tutte quelle dichiarazioni che abbiamo sentito siano mosse soltanto dall'opportunità politica di fare un danno al tuo nemico politico, più che dai dei fatti e dei riscontri per il momento. Ah beh sì, non gliene frega a niente a nessuno della Boschi in sé, ma di Renzi. Però cioè, questo è veramente triste, cioè, perché non ci si comporta così. Io dico che al momento, per quello che so io, poi non ne so nulla di più di quello che sappiamo tutti per ora, no, non si deve dimettere. Non si deve dimettere. E peraltro lo sanno tutti che questa mozione non passerà. Vabbè, questa è semplicemente anche un modo di fare pressione politica e di continuare a non fare il, secondo me, il vero lavoro che deve fare l'opposizione, che non è questo. No, no, ma su questo, cioè che sia un attacco, Paola, mi sembra aver capito anche te che interessi politici. Ma noi avevamo a Renzi, ieri sia rappresentanti del Movimento 5 Stelle, poi insomma si sente la Lega, è chiaro, è un fronte contro, no? È un contro l'altro, ed è la politica, perché provate ad immaginare la cosa rovesciata dall'altra parte, sarebbe sostanzialmente la stessa cosa. Forse ecco, in questo momento bisognerebbe badare più ancora ad altre situazioni, modello la soluzione di questo caso. Soluzione che parte innanzitutto da una soluzione di taglio economico. Attenzione, taglio economico che non deve prevedere e non prevederà soldi statali, perché soldi statali vuol dire soldi di tutti. No? Certo. Cioè soldi nostri. Anche perché l'Unione Europea, se mettiamo soldi statali. Sì, assolutamente, perché questa è una buona norma, insomma, i salvataggi di Stato non ci sono. Dopodiché la politica faccia la politica, insomma, e decidano loro tra sfiducia e fiducia che cosa fare. Forse prima ancora vengono le soluzioni. Trovo veramente che, adesso dico una cosa forte, però gongolare della morte di una persona perché ti dà la possibilità di attaccare qualcuno. Sì. No, questo è insopportabile, però devo dire questa cosa, la questione della morte, su questo secondo me Renzi ha fatto una dichiarazione che è anche un po' un boomerang, perché di recente, quando c'è stata, vi ricordate, la morte del piccolo Aylan, no? Il piccolo migrante, anche Renzi aveva fatto qualche dichiarazione, no? aveva mostrato la foto, non so in quale occasione, in un'occasione del PD, sentite qua Renzi, no? Perché questo è un tempo nel quale abbiamo bisogno di idee, di ideali. L'avete vista quella foto? Fai vedere, Franco, la foto di quel bambino, Aylan. Si è aperta una discussione. È giusto vederlo, questo bambino, a 3 anni? Alla festa dell'unità. È giusto vederlo, giusto non vederlo. Però intanto appare la foto, discute, Franco, la foto, da lì Aylan è morto. Cioè, è fondamentalmente diverso. Però ricordiamoci che quella foto lì ha fatto sì che la signora Merkel aprisse le frontiere. Cioè, voglio dire, non è una questione... È una questione leggermente diversa. Invece di dire è morta, è colpa tua. Sì. Infatti, chiaro. Anche lì mi ricordo che ci fu chi disse che era un sciacallo. Che non doveva farlo vedere. Ma di nuovo, non sul merito, solo sulla possibilità di colpire una persona. Non so, è chiaro che questo è un attacco politico, ripeto, che va al di là della Boschi si dimette o non si dimette, l'attacco politico, cioè quando si vede in politica, no, le difficoltà dell'avversario, si cerca di affondare il coltello. Ma soprattutto a dire che in qualsiasi altro paese europeo Renzi e la Boschi si sarebbero dimessi, per quello che è emerso finora è una gigantesca sciocchezza. Dici? Non lo so, però allora, i numeri, Paola, non ci sono, questo è abbastanza chiaro, i numeri non ci sono, fa bene Boschi a dire votate subito, tanto no, così se lo togli dalle scatole questa cosa, perché i numeri obiettivamente non passerà mai questa mozione, e però rimarrà qualche strascico secondo te di questa... Ma come accade sempre, Alessandro, come accade sempre in politica. Stiamo continuando a parlare di uno strascico di fatti o di eventi accaduti 15 anni fa, 10 anni fa, 2 governi fa, sì, continuiamo a parlarne. Come una persona fa qualcosa di nuovo, si ricorderà sempre quello che ha fatto, quello in cui è stata coinvolta, volente o nolente, e quindi chiaramente gli strascichi ci sono. Forse lo strascico più importante di questa vicenda, ribadisco, è controllare bene, e quindi quello non sarà uno strascico, deve diventare un muro portante, controllare bene che cosa viene venduto, quando si parla di posizionare il proprio denaro da qualche parte, che cosa viene firmato, perché è anche vero questo, quello si parla a una persona che dai da firmare, io firmo, E questo è sbagliato. E questo purtroppo è la battaglia che da giorni porta avanti, ma anche con critiche che mi arrivano a dire ma tutti quelli che hanno perso, molti saranno stati anche truffati. Però quando leggi, Paola Saluzzi, e quando leggi nei giorni scorsi... Per leggere devi... scusami, ti ho interrotto. No, ma quando leggi su Repubblica che li andavano a prendere a volte dichiarazioni di ex direttori di banca, li andavano a prendere nelle scuole, andavano a prendere negli oratori, li andavano a prendere a volte negli ospizi, venite a firmare, cioè c'era, secondo alcuni, un sistema proprio di truffa. Non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio. Poi c'è anche che quando sei quando hai 45 anni e magari anche qualcuno di più e ti dicono tu investi uno e riceverai 8, chiaro. Ti devi ricordare del campo dei miracoli di Pinocchio. Esatto, il campo dei miracoli. Soldi, brava, se metti brava. I soldi sottoterra non crescono. E guarda, ti parla chi si è trovato tante volte a dire però forse, certo non con questi tipi di investimenti, non so come dire, vai a firmare un mutuo e se ci sono sopra, se il mutuo ha determinate caratteristiche, forse dovresti stare ancora più attento. No, ma io è da giorni che insomma, parlando di mutui. Mi salva il fatto che Pinocchio è una delle favole preferite, l'avrò letta e sentita 100 volte da piccolo e quindi... Ma ha salvato quello. Non l'ha mai applicata, ma ha salvato quello. Ma sentite qui Crozza sulla Boschi, ieri a Di Martedì. Perché ce l'avete tanto con la Boschi? Poverina, in fondo poteva capitare a tutti, no? Ma perché non nominiamo dei ministri solo gente senza famiglia? Agli interni, Remy. Agli esteri, Oliver Twist. Che ne so, alle infrastrutture, Heidi. Ah no, Heidi, meglio di no, se no poi viene fuori che il nonno è stato 20 anni vicepresidente del Monte dei Paschi. Heidi, c'hai il nonno... Vabbè, questa è Crozza. Dai, andiamo a sentire il traffico e poi rientriamo. Uè, Milan, in merito alla tua cara amica Boschi, è vero che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, ma è altrettanto vero che i piaceri dei padri non devono favorire i figli. Basta tutta questa farsa, basta. Tu, la Boschi, Radio 24, tutti sti giornalisti servi di questi ladri, basta. Bisogna prendere prima l'impronta digitale dei deputati e senatori della Repubblica Italiana e dopo gli stranieri. Ehi, Europa, ma che cazzo ti rendono? Ieri mi sono riguardato tutto l'affare della Leopoldia, ma mi sembra di vedere un incrocio tra Scientology, una setta, testimoni di Geova e cantatori di gospel. Caro Milan, non sono incazzato e non ho bisogno di forconi, ma ti a sentire. Ha detto Renzi che la bandiera del PD ce l'ha nel cuore. La stoffa, dico io, e l'asta. Ciao Milan! L'asta effettivamente non lo sappiamo e non vogliamo saperlo, non vogliamo neanche saperlo, caro ascoltatore. Allora, ma guarda qui la copertina di Vanity Fair, eccolo qua, vedi che si parlava settimana scorsa, caro Lucadini, di Donald Trump. E chi ti ritrovi in copertina di Vanity Fair oggi? Chi ti ritrovi? Lui. No, ti ritrovi Melania. Oh ragazzi, sì, signore e signori, Melania, la moglie di Donald Trump. Vogliamo parlarne? No, scherzo, c'è ovviamente Donald Trump e a fianco c'è una possibile First Lady, che io dico va bene Michelle Obama, va bene Hillary Clinton, cioè insomma va bene insomma. Ma signore e signori, Melania, la terza moglie di Donald Trump, promossa subito. Hai visto. Tra l'altro siete riusciti per meriti politici siete riusciti a fare una foto di Donald Trump con una zazzera di colore proponibile. Come avete fatto? So. Photoshop? Photoshop? No. Scusa. Diciamo che lì il parrucchiere è stato bravo. Ma allora è davvero possibile questa cosa di Donald Trump? Cioè, dice, anche voi dite non sottovalutiamolo così tanto, no? Beh, a questo punto non si può certo sottovalutare. Cioè, se non succede qualcosa di inimmaginabile, la nomination non so chi gliela possa portare via. Poi vincere è un'altra cosa, quindi credo che alla fine il fatto che lui possa avere la nomination in realtà è il, la situazione migliore possibile per Hillary Clinton. Per Hillary Clinton. Comunque, perché, insomma, per lui non sarà per niente facile, però ecco. Però io dico, se uno vede Melania, secondo me un paio di voti in più, cioè giusto per vederla come... No? Paola, tu non ti convince questo argomento? Ma guarda, io ho già un biglietto pronto per cambiare pianeta, siamo molti. Se Donald Trump vince... No, per favore, insomma, ma neanche nei peggiori worst nightmare, neanche nei peggiori incubo della vita. Zero, neanche nei peggiori incubo della vita. Zero. Però per io l'ho detto così anche per il secondo mandato, poi... Anche il secondo mandato terra, Bush, e poi sei esatto, poi ha vinto Bush. Beh, e tu sei rimasto qui tra noi. Non era molto migliore, secondo me, di questo signore. Sì, è che Donald Trump fa anche delle dichiarazioni, così almeno Bush era ammantato dietro un po', no? Invece proprio Donald Trump è uno, questo, i neri, anzi lui dirà i negri, immagino, perché figurati. No, quello non, no, non c'è ancora arrivato a questo. Non c'è ancora arrivato. Ma ha attraversato altre praterie. Stai sistemando casa intanto, Paola Saluzzi? Sì, assolutamente, ho preparato il caffè, ora sto preparando la colazione, cioè il latte di soia con un caffè al ginseng. Sì? Il gatto tutto a posto? Il gatto ho messo in forno un pezzo di panettone, sì, buono. Sì. Il gatto mi ha mandato. Non ti insegue il gatto, dicendo "Mau!" No, dopo la sua esternazione, che tanto l'ha resa famosa in tutto il territorio italiano e oltre, nell'etere, ha deciso di non parlare. Non parlare più. Che a volte potrebbe essere una buona idea. È in sciopero, è in sciopero con la stampa il gatto di Paola Saluzzi, che ricordiamo, sempre si chiama? Caterina, è vero. Caterina, la gatta di Paola Saluzzi. È la faccia da Caterina. Ah, sì. Che poi sarebbe una faccia da Caterina? Una faccia dolce. Ah, facci una faccia da Caterina. Allora, ti prego, mandaci un selfie, perché abbiamo perso queste abitudini. Vorrei da te, sia da Luca Dini, o un selfie, una foto, un particolare, qualcosa che vi umanizzi, insomma, anche per i nostri amici su Twitter. Puoi mandarci Caterina, puoi mandarci tu con la faccia di Caterina, cara Paola Saluzzi. Ti mando un pezzo della mia colazione. Va bene, ma tu dici, chi se ne frega? No, noi così vogliamo entrare nelle case, vogliamo mostrare un po' più di empatia nei confronti vostri e voi nei confronti dei nostri ascoltatori. No, c'è un altro servizio su Vanity Fair che mi ha molto colpito, ed è questo, perché si parla molto di migranti in Europa. Tu ne parlerai, Paola, o no? Nel senso che sì, certo, oggi certo. Perché domani c'è un vertice importante, cioè l'Europa ci ha chiesto di utilizzare l'uso della forza per le impronte digitali, eccetera. E voi non lo sapete, ma oggi Vanity Fair lo racconta, ci sono moltissime persone che partono dall'Africa, dai paesi dell'Africa, e non vengono qui in Europa. Dove vanno, Luca? Cercano di andare in Sudafrica. In sono Sudafrica? I più poveri. Sono quelli che non hanno nemmeno i soldi per pagarsi il tentativo di attraversare il Mediterraneo. E quindi cercano meno soldi, vanno a sud, cercano di arrivare in Sudafrica. Anche lì vengono truffati, derubati, e anche lì finiscono in un posto che non è Lampedusa, ma è il Malawi, dove vengono sostanzialmente venduti, messi in centri di detenzione, dove diciamo i soldi sfruttati. Sì, i soldi vengono tenuti da chi li dovrebbe sfamare e tenuti in condizioni. In questo caso i barconi sono di cemento, perché chiaramente non ci sono mari da attraversare, ma immagino camion, immagino mezzi di spostamento così. Beh, davvero è una storia nuova. Non so se Paola la conoscevi, ma no. Tra l'altro, che ne pensi di questa Europa allora che ci chiede di usare la forza, anche la forza per le impronte digitali? Ma le impronte digitali ti impongono poi di non solo di essere ampiamente riconosciuto, sulla riconoscibilità siamo tutti quanti d'accordo, insomma bisogna capire anche chi sei quando ti sposti, no? Perché a parte le tue migliori intenzioni potrebbero anche essercene di non buone. Il problema è cambiare, però io non devo poi rimanere fisso stabile nel posto dove ho lasciato le mie impronte digitali. Se la mia idea è raggiungere il nord, io non devo essere bloccato perché questo riconoscimento c'è stato in questo luogo, cioè se io vengo riconosciuto in Sicilia, ma il mio obiettivo è il Molise, io devo poter arrivare in Molise, questo è il senso. Quindi questa diventa una regola, bene, cambiate le altre. Certo. Per snellire poi in realtà, non per fare un regalo, per snellire per tutti. per le operazioni. Per no, tutti. Ma guarda, ma anche questa Europa, insomma, che impone solo regole. Bah. Comunque ne parleremo noi dalle 8:15. Ma Paola Saluzzi la ritroverete ovviamente alle 15 su Sky TG24 pomeriggio. Vai avanti fino a quando, Paola? Fino a Dunque, Natale. Dunque, sono fino a Natale. Fino a Natale. Sì. Fino a Natale. E anche il 23, 25? Il 23. No, anche il 25. Il 23. Ma dai, no! No, il 25. Sì. Il 23 non posso essere con voi. Al 23 non puoi essere con voi. Sì. Cioè mercoledì prossimo. È una cosa sei incupita. Molto. Sei intristita tantissimo. Mercoledì prossimo non ci sarai. E allora ti facciamo buon Natale da adesso, cara Paola. Ma poi non ce ne frega niente. Ma poi no, ma no, ma ti sei incupita, ma poi ci sentiamo, ma ti stiamo vicino, tu mandaci il selfie con la faccia di Caterina. Ti prego. Assolutamente, mi muovo. Va bene. Intanto a te un abbraccio come a Luca Dini. Signori, Melania in prima di Vanity Fair, la moglie di Donald Trump. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, le 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali, poi più avanti con Oscar Giannino parleremo di, ovviamente, di banche, la situazione attuale, ma parleremo anche di immigrazione, l'Europa ci bacchetta un po', guarda caso, guarda un po', sempre l'Europa, allora... Ne parleremo e parleremo di questi temi. Intanto andiamo a sfogliare questi quotidiani che trovate in edicola. È mercoledì 16 dicembre. I titoli: Il Sole 24 Ore apre sulle borse europee in rally sull'attesa dei tassi USA. Questo è il titolo di prima pagina. Poi ovviamente la situazione banche tiene ancora banco. Ebbene sì, Banca Italia e Consob, il governo prepara la nuova vigilanza, questo è il titolo di Repubblica, cioè che cosa pensa Renzi di fare per ovviare dal futuro a queste situazioni. Tra l'altro Renzi, che ieri è andato a porta, come titolano vari giornali, Il Messaggero, banche, chi ha truffato pagherà. Questa è la frase di Renzi, uguale, la trovate anche come apertura sulla Stampa. Ma i giornali invece che attaccano molto su questo tema sono Il Manifesto, c'è la foto della Boschi e di Renzi, tengono banco, questo è il titolo di prima pagina. Mentre mi inquieta molto ciò che il Fatto Quotidiano scrive in prima pagina. Il PM che indaga su Banca Etruria è consulente del governo Renzi. Questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Poi vedremo di che si tratta. Libero, così Renzi salvò papà Boschi. Non è vero che il governo ha recepito la direttiva UE, l'ha stravolta per dare uno scudo agli amministratori degli istituti di credito mandati in malora. Questo scrive Libero. Il giornale invece continua su questa notizia, che ha scovato il giornale stesso, su De Benedetti. La soffiata che inguaia De Benedetti. Nelle intercettazioni l'ingegnere anticipa la riforma del governo e ordina comprate popolari subito. Questo è lo stralcio dell'intercettazione che oggi il giornale anticipa. Il Corriere della Sera invece apre sull'Iraq. Più soldati italiani in Iraq, questo è il titolo principale, così anche l'unità, la difesa della diga, perché gli italiani verranno messi a difendere la diga di Mosul. Da cosa parto però? L'abbiamo sentito nel giornale radio. È morto Licio Gelli. Per molti giovani Licio Gelli dirà poco o nulla. Per molti italiani invece dirà molto. Vi segnalo il profilo di Carlo Marroni, prima pagina del Sole 24 Ore. Licio Gelli è morto ad Arezzo a 96 anni, era il venerabile, così conosciuto da molti. L'Italia, e non solo, conobbe il suo nome quando nel 1981 i finanzieri entrarono a Villa Vanda, la sua residenza aretina, dove Licio Gelli si è spento ieri a 96 anni. Licio Gelli è deceduto da un periodo in cui le condizioni di salute erano peggiorate. E poi Carlo Marroni racconta chi è stato per l'Italia Licio Gelli. L'ex venerabile maestro della loggia massonica P2, era l'emblema di un'epoca che ha profondamente segnato la storia d'Italia con i suoi scandali, i suoi misteri mai fin in fondo svelati. Condannato per depistaggio dalle indagini della strage di Bologna nell'80, ma poi anche per il caso Ambrosiano e appunto per la P2, aveva scontato pene in Svizzera e poi in Francia, prima di tornare in Italia. Tra i tanti nomi e soprannomi con cui veniva identificato, il burattinaio, il venerabile, Gelli è stata una figura controversa della storia patria e mai del tutto inquadrata realmente. Venne considerato responsabile di un disegno agghiacciante per l'Italia, il piano di rinascita, ma alla fine forse inadeguato per la sua storia e il suo standing in grado di poterlo attuare. Giulio Andreotti, verso il quale spesso vennero indirizzati sospetti di vicinanza, smorzava ogni volta gli accostamenti. «Mi ricordo di lui come il direttore della Permaflex di Frosinone», disse più volte, non senza ironia, l'ex primo ministro democristiano, che pure fu fotografato insieme a Gelli e il cui numero di telefono fu trovato tra i famigerati documenti di Castiglion Fibocchi. Lo scandalo scoppiò il 17 marzo 81, quando i giudici Gerardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito dell'inchiesta sul finto rapimento del finanziere Sindona, fecero perquisire la villa aretina. Da lì spuntarono liste infinite di nomi, parlamentari, alti ufficiali, imprenditori, giornalisti, nobili uomini più o meno decaduti. L'Italia tremò, lui scappò in Svizzera, dove sarà arrestato e rimase in carcere mesi dopo, e dalla quale evadrà. Poi anni dopo si costituisce, siamo già nell'87, finalmente l'estradizione in Italia nell'88. Prima la libertà provvisoria, poi di nuovo l'arresto nel 97 e nel 98 la conferma della condanna a 12 anni per il crack ambrosiano. Di nuovo irreperibile, fuga di 4 mesi, gli vengono concessi domiciliari che sconterà nella solita Villa Wanda, a un certo punto sequestrata per debiti col fisco poi prescritti. Resta il dubbio che molti misteri mai svelati della storia italiana ormai siano sepolti con lui, simbolo non unico di uno spaccato di storia della quale non si va per niente fieri, ma che non va dimenticata, anzi va ricordata sempre a monito di come sia possibile che le istituzioni democratiche possano essere infiltrate da chi le vuole deboli e manipolabili. Questo è il profilo di Carlo Marroni sul Sole 24 Ore di Licio Gelli, l'ex venerabile loggia P2, morto ieri a 96 anni. La notizia c'è anche su Repubblica e su La Stampa. Beh, davvero è uno spaccato di storia italiana. Chi volesse leggere e approfondire oggi sui giornali c'è molto. Oh, cari italiani, cari romani! Come detto, panem et circenses, cominciamo a togliervi i circenses, perché il prefetto Tronca ha detto che quest'anno a Capodanno non si festeggia, non ci sono soldi, i conti in rosso, niente concertone. Pagina 23 di Repubblica, ma anche il 14 di Libero, Tronca spegne il Capodanno a Roma. Ah, con fierezza milanese, è arrivato... No, scherzo, dai, non la voglio porre così, poi dopo mi odiano tutti a Roma, non è vero, città straordinaria. Comunque, Giovanna Vitale racconta su Repubblica: spenta, senza più feste né concerti. A Roma il Circo Massimo resterà l'antica arena di sempre, ma deserta quest'anno, senza palchi e bottiglie stappate a mezzanotte per brindare insieme all'anno nuovo. E così i fori imperiali, sgomberati da bancarelle, camion, bar, ma non più animati da saltimbanchi e mangiafuoco. Nessuno si ritroverà in centro per il consueto baccanale collettivo per aspettare il 2016. Accadeva da 4 lustri, ebbene, al buio resteranno pure le 4 piazze di periferia che la decaduta giunta Marino aveva immaginato piene di musica e gente a mo' di risarcimento per il lungo inverno a cui sono state condannate da decenni. Niente feste, non ci sono soldi, via i circenses per il panem. Ci stiamo attrezzando. No, assolutamente no. Ma dai, permettete una battuta. In tutto questo, cari italiani, oggi se dovete andare a fare una visita, ne parla anche Cuore Denari, attenzione, perché c'è lo sciopero dei medici e sono a rischio 2 milioni di visite oggi. Racconta Simona Ravizza sul Corriere della Sera, ma tutti i giornali riportano questa notizia, che negli ospedali oggi sono garantite solo le urgenze perché c'è lo sciopero. dei medici che rischiano di far saltare oltre 2 milioni di visite d'esami. Se avete oggi una visita, un esame prenotato, se non è urgentissimo, informatevi, perché se no arrivate lì e poi dite: ah, ma come, c'è lo sciopero. I medici protestano, e sono 200.000 che protestano, tra ospedalieri, dottori di famiglia, pediatri anche. Uno dei motivi centrali dello sciopero è questa richiesta di piano di assunzione dei nuovi medici di cui parlavamo ieri, perché dopo l'introduzione dell'obbligo di riposo di 11 ore tra un turno e l'altro di lavoro, è indispensabile assumere 6.000 nuovi medici per rinforzare le corsie e degli ospedali, e questo nonostante l'assicurazione del ministro Lorenzin al momento non è ancora garantito, e dunque i medici scioperano. Parleremo, come detto, di immigrazione, e ci sono degli articoli che più avanti forse vedremo, ma per entrare nella questione politica, due notizie. La prima: Forza Italia licenzia. Silvio Berlusconi ha licenziato 81 dipendenti. Forza Italia è senza fondi, e dunque la lettera di Maria Rosaria Rossi, ex deputata azzurra, oggi senatrice di Forza Italia, tesoriere di Forza Italia, ai dipendenti è questa: con la presente si comunica l'avvio della procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti ai sensi del decreto legge bla bla bla bla bla bla. È la legge che ha abolito gradualmente il finanziamento pubblico ai partiti, ed ecco allora chi paga. Pagano i partiti? No, pagano i dipendenti dei partiti, 81 messi a casa, probabilmente gente che guadagna 1.000, 1.200, 1.500 euro al mese, tanto i soldi i partiti li trovano comunque, vedi l'attuale vicenda che abbiamo raccontato dei gruppi parlamentari che sono spartiti 16 milioni di euro. Ebbene, Forza Italia invece senza fondi licenzia 81, lo dico in senso affettuoso, sfigati. Gli sfigati pagano sempre, no? I dipendenti di partito pagano. Anche Libero, oltre al Corriere, dedica una pagina a questo: Forza Italia senza soldi, licenziati tutti i dipendenti. I dipendenti che non sono gli onorevoli, non sono gli onorevoli, quelli non possono essere licenziati, c'è l'auto di chi sono stati eletti. Allora, ma a proposito di questo, l'articolo che mi fa della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, lo troviamo sul Fatto Quotidiano. Marco Palombi racconta che c'è il mercato della stabilità, anche quest'anno arrivano le mance all'ultimo minuto grazie al lavoro molto previdente delle lobby che in Parlamento riescono a far avere soldi un po' ovunque. La premessa, come racconta Marco Palombi, è questa: quello che viene definito marchettificio in realtà è un qualcosa in cui dentro ci finisce tutto, il grano e l'olio, l'erba e la gramigna, norme sacrosante e schifezze varie. Quindi chi si vedrà citato in questo articolo dirà: ah, ma noi facciamo un qualcosa di straordinario. Non c'è, nessuno lo mette in dubbio, può essere così, ma finisce appunto in questo assalto alla dirigenza, quel finanziamento sacrosanto, e finisce anche la monnezza. Comunque 3 milioni per cori e bande musicali varie, 100.000 euro per la società Dante Alighieri, 70.000 euro per il Museo della Civiltà Istriano Fiumano Dalmata, 500.000 euro all'Istituto Suor Orsola Benincasa, 500.000 euro al Maxi guidato dall'ex ministro Melandri, 1 milione al Club Alpino Italiano, 4 milioni per l'Accademia Non Statale delle Belle Arti, 10 milioni agli amici di Radio Radicale per il rinnovo della convenzione, e via così la pioggia di soldi, soldi, soldi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Milan, il cagnas, vantaggio dell'informazione. Oh, questo è tornato, ebbene. Allora saluto il nostro ascoltatore che ci segue dalla Pontina, dopo aver detto qualche battuta sui romani. mi scrive con grande amore: siamo tutti sulla pontina, mo se organizziamo, se mettiamo d'accordo, e tra 3 mesi te veniamo a menà. Va bene, forse, se ce va. Va bene, vi aspetto con un grande abbraccio. Voi bastoni e io fiori, caro ascoltatore. Voi pugni e io carezze. Eccoci qua, vi attendo con ansia. Allora. La vicenda banche, la vicenda Boschi, perché sono collegate, è inutile girarci intorno, almeno politicamente l'attacco concentrico per il ministro, nei confronti del ministro Boschi c'è. Tra l'altro il ministro Boschi, che ieri ha partecipato alla presentazione di un libro, ma dice le uniche dichiarazioni pubbliche che fa sono queste: parlerò ma solo in aula. Tra l'altro Repubblica in un retroscena fa sapere che Renzi ha avvocato a sé la pratica, diciamo così, nel senso che ha detto a tutti: parlo io. La vicenda l'affronto personalmente con interviste, quindi nessuna intervista è concessa a chi che sia, anche alla Boschi, data per, tra l'altro, infuriata, qui sul Fatto Quotidiano, infuriata per l'intervista a suo modo carpita alla madre ieri dal Corriere della Sera. Comunque, Renzi se ne vuole occupare personalmente, tanto che ieri è andato a porta da Bruno Vespa e dice: c'è un attacco al governo al quale non risponderò. Salvini ha detto che sono un infame, ma quando si arriva a strumentalizzare la morte di una persona, per carità di Dio, fermiamoci prima. Un Renzi che dice: chi ha sbagliato pagherà, chi è stato truffato sarà risarcito. Queste sono dichiarazioni pubbliche. La cosa più interessante forse è ciò che Renzi medita di fare ora, nel senso che Repubblica anticipa con Valentina Conte e Elena Polidori a pagina 2-3 che Banca Italia e Consob sono allo studio del governo per quel che riguarda la riforma della vigilanza. Un Renzi che dice: intanto farà una campagna per spiegare agli italiani cosa succede da qui in avanti se la banca fa crack, a colpi di spot, video, grafici su radio, TV, internet. Il Ministero dell'Economia sta lavorando in queste ore con Palazzo Chigi e Banca Italia per questa campagna di informazione. E Renzi dice: se c'è una lezione che stiamo imparando è il digiuno finanziario dei risparmiatori. Questo dicono anche in realtà il Ministero dell'Economia. E a Palazzo Chigi invece il cruccio è tutto qui: qualcosa non ha funzionato e ora va fatta una riforma. Lavoriamo con calma e ragionevolezza, i tempi non saranno immediati, ma bisogna fare una riforma della vigilanza. A questo punta Renzi. Un intervento che però non sarà immediato, perché Palazzo Chigi preferisce approfondire prima tutti i nodi, così racconta Repubblica. Certo, ciò che scrive il Fatto Quotidiano, come ho detto in apertura di rassegna stampa, mi ha inquietato e non poco. La notizia è questa, prima pagina del Fatto: il procuratore del caso Etruria ha un incarico a Palazzo Chigi. Ma come? E invece Fabrizio D'Esposito racconta che è così. La voce è un venticello insistente in mattinata che si propaga in alcuni ambienti riservatissimi della politica. La voce che il procuratore capo di Arezzo, della procura che cioè indaga sul presunto conflitto di interessi degli ex vertici di Banca Etruria, sia un consulente del governo a Palazzo Chigi, è più che una voce, perché al numero 81 del voluminoso elenco di consulenti e collaboratori delle varie strutture della Presidenza del Consiglio c'è proprio il nome di Roberto Rossi, con tanto di curriculum che inizia così: curriculum del dottor Roberto Rossi, magistrato in sesta valutazione di professionalità, attualmente procuratore della Repubblica facente funzioni ad Arezzo. E lo stesso Rossi spiega: sono stato applicato per un anno presso la direzione distrettuale antimafia di Firenze a seguito del pensionamento del dottor Scipio, dal gennaio di quest'anno sono reggente della procura di Arezzo. Riassumendo, scrive il Fatto, il magistrato a capo della procura che sta indagando su uno scandalo che può lambire Pierluigi Boschi, già vicepresidente della Banca Etruria e padre del ministro Boschi, è stato nominato nel febbraio di quest'anno tra i consulenti del governo Renzi. Fa parte del DAGL, cioè questa sigla, che ha come capo Antonella Manzione, ex comandante dei vigili urbani di Firenze, chiamata dal premier a Palazzo Chigi. Il DAG sta per Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi. Ora, fa sapere il fatto che la consulenza, che scadrà a fine anno, è una consulenza da 5.000 euro lordi, quindi pochissima cosa, bruscolini, ma l'opportunità a questo punto si impone come discussione. Ma come? È il capo della procura che indaga. Vabbè, questo sul Fatto Quotidiano. Mentre parla sulla Stampa il nuovo amministratore delegato della Banca Etruria, della nuova Banca Etruria, Roberto Bertola, e annuncia, intervistato da Gianluca Paolucci, faremo causa agli ex vertici di Banca Etruria. Ho accettato il ruolo perché è una banca del territorio, radicata, una realtà che conosco, ho trovato una situazione impegnativa, la definisce così, ma anche una banca fortemente radicata nel territorio. Per la prima volta però racconta, partiamo da lontano, e annuncia l'idea di fare appunto causa agli ex vertici di Banca Etruria, così il nuovo amministratore delegato Bertola. Tra l'altro, a proposito di accuse, oltre all'accusa, o meglio la notizia di che il procuratore capo è consulente di Palazzo Chigi, c'è invece questa accusa di Libero, e che è circostanziata così: così Renzi salvò Papà Boschi, pagina 2 di Libero. Il vice direttore Franco Bechis racconta: è vero che Maria Elena Boschi ha detto che non ho partecipato al consiglio dei ministri che ha varato lo scudo per i vertici di Banca Etruria, ma lo stesso ministro non parla delle tre riunioni dei consigli dei ministri che hanno preparato, e porta addirittura la sua firma, la lettera di accompagnamento del provvedimento, una lettera che Libero riproduce a pagina 2. E quindi questo contestato scudo civile e penale verso gli amministratori che hanno provocato il dissesto delle quattro banche poi salvate, che non era contenuto, scrive Libero, in alcun punto della direttiva europea sul bail-in, è stato costruito a Palazzo Chigi in riunioni alle quali Maria Elena Boschi ha partecipato. Questa è l'accusa di Libero. Come vedete, insomma, la situazione è molto complicata. La Boschi però dice: io voglio sfidarli prima di Natale. Nel senso che è sicura dei numeri, e i numeri ci sono, e preme il ministro affinché le due mozioni vengano messe all'ordine del giorno anche al Senato prima di Natale. L'idea è quella, insomma, di togliersi di dosso questa patata bollente al più presto. Ma comunque di banche parla anche ovviamente il Sole 24 Ore, vero Mauro Meazza? Buongiorno. In coppa, e dopo il 4 c'è il 3. Una coppa, diciamo, domestica, ma pur sempre una coppa. Vincerete tutto. Stiamo già aprendo un ciclo, come già ti ho avuto occasione di dirti. Ti ringrazio della domanda, non mi hai fatto nessuna domanda, mi pare. Sì, sulle banche, no, non è una domanda. No, volevo invece, scusami, volevo ignorare questa sollecitazione, ovviamente parliamo di banche, anzi. Tu parlavi prima di campagna di educazione finanziaria, sì. E è uno dei punti del nostro manifesto della tutela del risparmio che da giorni suggeriamo. Ci sarebbero anche degli interventi, diciamo, di a costo zero, come si usava a dire una volta, per migliorare magari interrompere questo digiuno di materia finanziaria degli italiani. Va bene, ma io volevo invece candidare un articolo del Sole 24 Ore di oggi al premio Mani sul Volante. Lo so che l'hai già assegnato. Vabbè. L'hai assegnato alla legge Mancia, ne parliamo, diciamo, alle norme Mancia contenute nella legge di stabilità, ne parliamo anche noi sul Sole 24 Ore, ma ti volevo invece segnalare questa mini proroga per IMU e TASI. Allora, per due motivi. Primo, ricordati che devi pagare. Ah, ecco, giusto. Oggi è il 16 di dicembre e tu devi pagare. Non solo tu, ma oggi scade il saldo per IMU e TASI. Ricordiamo, l'abolizione per la prima casa è dal prossimo anno, quindi questa volta si paga. No, perché leggendo il Sole 24 Ore nelle pagine di norme e tributi, religiosamente, ma anche non religiosamente, scopro che nella legge di stabilità è stata varata una mini sanatoria per le delibere in ritardo, ti ricordi? Ah, sì, è una sanatoria, non allora, si nega mai a nessuno. No, aspetta, perché la sanatoria copre soltanto le delibere approvate non entro il 30 luglio, ma il 31 luglio. Mm-hmm. risultato di 800 e passa comuni interessati, se ne salvano 159. Allora, a questo punto, chi è interessato dalla delibera approvata il 31 luglio può utilizzare le diverse aliquote varate, mentre tutti gli altri usano quelle. Insomma, leggi il Sole 24 Ore, guarda anche sul sito del Sole prima di pagare, così puoi verificare come stanno le cose. In ogni caso, anche oggi sul Sole, naturalmente le indicazioni di massima per i pagamenti e eventualmente anche per i ravvedimenti. Ravvedimento nel senso appunto non giubilare del termine, ma ravvedimento, cioè chi paga in ritardo, magari proprio per questo pasticcetto. Non so se vinco il premio, ma nessuno volete, mi farebbe molto piacere. Vabbè, insomma, vinci il premio bis. Mi sono candidato per questo premio. Oh, poi invece un premio l'ha già vinto Radio 24, ho preso da Sole 24 Ore. Ma certo, il nostro grande Dario Ricci. È un premio tra l'altro per lo sport, nonostante lo scempio che noi due ne facciamo parlando di calcio. L'Oscar dello sport mondiale ad Abu Dhabi, grandissimo Darietto. Dario Ricci, infatti gli facciamo i complimenti e sono contento che il nostro chiacchiericcio non abbia disturbato i giurati. Oh, naturalmente parliamo molto di legge di stabilità, stiamo un po' alla stretta finale, insomma si dovrebbe vedere una conclusione per quanto riguarda la Camera entro sabato o domenica. Però guarda che rispunta anche la legge sulla concorrenza, te la ricordi? Ah, come no? È rispuntata anche la legge sulla concorrenza, ne parliamo oggi nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Poi oggi è un giorno molto importante non solo per l'IMU e la TASI, ma naturalmente anche per la FED, per le decisioni della Federal Reserve, ma di questo so che già hai ammonito, hai avvertito gli ascoltatori. E allora ti vorrei dire, così come ultima segnalazione dal quotidiano, una sola cosa: potresti anche pagare dall'anno prossimo il parcheggio con il bancomat. Ah. Lo prevede, lo dispone, lo propone la legge di stabilità in votazione in questi giorni. Perché ti parlo proprio adesso di questo? Ah, scusa, mi stavo dimenticando una cosa importante: Radio Fisco. In Gazzetta Ufficiale ci sono le tabelle dei costi chilometrici. Tu non hai capito, ma i professionisti sì. È chiaro. È importante, lo segnaliamo oggi. E potrei pagare, dicevo, il parcheggio con il bancomat. Te ne parlo perché adesso mi tocca proprio dirti. Traffico! Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. Grande, un abbraccio a Rossella Brescia, se vuole prima del Natale la invitiamo nel nostro Parlamento alle 6.30. Allora, il giornale insiste, è da giorni che ha tirato fuori questa notizia su De Benedetti, e anche oggi la prima pagina Nicola Porro è dedicata proprio a questo, cioè la vicenda dell'indagine nei confronti di Carlo De Benedetti, o meglio della finanziaria Romed, che secondo quello che ha detto il giornale ha movimentato molto delle popolari poco prima del decreto del governo e ha fatto una plusvalenza da 600.000 euro sulla quale sta indagando la procura di Roma. La soffiata che inguaia De Benedetti, scrive oggi il giornale, è questa. C'è, racconta Nicola Porro a pagina 3, uno stralcio delle intercettazioni, non sono riportate, ma chiaramente si evince dall'articolo che Nicola Porro le ha potute leggere. Allora, nelle intercettazioni della Guardia di Finanza sul presunto insider trading si vede che l'ingegnere Carlo De Benedetti chiama l'amministratore delegato di Intermonte, vale a dire Gianluca Bolengo, e si dice certo che il governo stia per varare la trasformazione delle banche in SPA di cui si parla da 20 anni. Cita fonti della Banca d'Italia e dice: comprate popolari subito. Ecco, questa è l'accusa che il giornale fa oggi a De Benedetti, riportata nelle intercettazioni della Guardia di Finanza. Diamo uno sguardo all'attualità internazionale. Ieri Renzi ha parlato anche di Iraq, dove l'Italia è impegnata con i soldati. È il titolo principale del Corriere della Sera: più soldati italiani in Iraq. Perché il titolo principale? Anche perché il Corriere ha un bellissimo reportage di Lorenzo Cremonesi a pagina 2-3 per la verità, in quella zona, però non proprio in Iraq, ma al confine a Kobane in Siria, quindi al confine tra Turchia e Siria, e Lorenzo Cremonesi racconta il viaggio ai confini del califfato dove l'ISIS è in ritirata, quindi racconta l'avanzata delle truppe internazionali e comunque dei filo dei filo internazionali contro l'ISIS e soprattutto sta con i curdi che combattono l'ISIS. Ma un po' più in là, Roma decide di schierare 450 militari a Mosul nel nord dell'Iraq per difendere la diga. Come scrive l'Unità, la guerra è anche una diga. 450 soldati italiani a Mosul è l'impegno del nostro paese nell'impianto strategico e difenderemo, insomma, quindi una merce molto preziosa, non solo in tempi di guerra, vale a dire l'acqua, questo nel nord dell'Iraq. Parleremo invece, come detto, di immigrazione. Domani, tra l'altro, c'è un vertice a Bruxelles con Matteo Renzi, racconta Repubblica, lo fa Andrea Bonanni a pagina 10, pronto a combattere contro quelle che definisce le politiche troppo rigorose dell'Europa e un po' miopi, nel senso che l'Europa ci dice dovete prendere le impronte, lo dovete fare con la forza. Renzi pronto anche al braccio di ferro con la Merkel, questo racconta almeno il quotidiano Repubblica. E questo ovviamente lo vedremo domani, ma noi ne parleremo oggi. Qualche notizia di cronaca, la prima è questa, molto interessante, riguarda moltissimi genitori, riguarda tantissimi adolescenti in tutta Italia. L'Unione Europea ha deciso di alzare per Facebook l'età minima da 13 a 16 anni. Poi è chiaro, viene sempre aggirata, però in teoria se si rispettano le regole bisognerebbe avere 13 anni oggi, verrà alzata a 16 anni. L'Unione Europea vieta Facebook ai minori di 16 anni. La pagina 15 della Stampa è dedicata a questo, è interessante, c'è tutto il tema del rapporto tra i teenager e la rete, il rapporto anche con tutti i possibili reati, possibili anche le possibili reti negative in cui possono incappare i nostri figli. Insomma, Marco Zatterin racconta questo compromesso europeo sull'età del consenso informatico. I governi dell'Unione con l'Europarlamento hanno stabilito di portare da 13 a 16 anni il limite per il libero accesso al mondo di Zuckerberg, cioè di Facebook e anche altri social, anche Snapchat, Instagram e perfino a Gmail. E dunque questa è la decisione. E poi vi segnalo questa sullo sport. Beh, oggi la Gazzetta dello Sport intervista Sepp Blatter, è un'intervista esclusiva, è colui che è il dominus o è stato il dominus mondiale del calcio. A pagina 2-3 Fabio Licari racconta la verità di Blatter, nel senso che c'è un'intervista all'ottantenne Blatter, 40 anni passati alla FIFA, da 17 anni presidente, e lui ci tiene a dire lo sono ancora. Domani sarà davanti al comitato etico che lo ha sospeso e dice non sono il diavolo, e poi dice sono innocente, non ho preso soldi, non ho preso tangenti, vabbè. Ma soprattutto a proposito di calcio, la notiziola, ragazzi, hanno arrestato il magazziniere del Milan. Cioè, sono tempi così, il magazziniere del Milan. Perché l'accusa, sì, gli hanno trovato a casa delle magliette che poi magari si rivendeva, non lo so, questa è l'accusa. Soprattutto, guardate qui, pagina 23 del Corriere. Gli hanno trovato due calzoncini, una felpa e le scarpe del calciatore Emanuelson. Ora io dico, ma tu puoi venire arrestato perché ti rivendi le scarpe di Emanuelson? La squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tipo la squadra migliore del mondo. Sono tempi bui, ragazzi, sono tempi bui. Vabbè, andiamo alla carta costa, Una pagina del giornale per i nuovi testimonial della pubblicità, così la pubblicità rottama i VIP, basta George Clooney, basta Stefano Accorsi, basta questi VIP, ora ci sono i non famosi. Ma chi se ne frega!